Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'Europa pronta a sanzioni contro la Libia, anche la NATO riunita, 400 gli italiani bloccati. Avanzano ancora le truppe anti-Gheddafi, presa anche la città di Misurata, Tripoli, sempre più vicina. Mille proroghe, il sì alla Camera, Montecitorio anche Berlusconi. Unità d'Italia, 6 milioni di euro per le gite scolastiche per conoscere il bel paese. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Potrebbe arrivare a breve la decisione dall'Europa per la Libia. Intanto ci sono ancora decine di italiani nel paese, come avete sentito nei nostri titoli, e non si fermano le violenze. Torniamo allora ancora una volta a fare il punto su quello che sta succedendo e sulle novità degli ultimi minuti. Qui con me Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. Allora, intanto una decisione sulle sanzioni europee nei confronti della Libia è attesa a breve, questo quanto ha detto proprio poco fa un portavoce della Commissione europea, senza specificare ulteriormente i tempi per il varo dei provvedimenti. Quindi vi riferiremo anche nel corso di questo giornale radio se vi fossero aggiornamenti. L'Unione europea di fatto cosa ha detto? Ha detto che prenderà delle misure per far uscire la Libia dalla violenza al più presto. A far pressioni sono soprattutto Francia e Gran Bretagna, che hanno proposto al Consiglio di sicurezza dell'ONU un progetto di risoluzione sulla Libia che preveda un embargo totale sulle armi, sanzioni e anche di affidare al Tribunale Penale Internazionale l'inchiesta per crimini contro l'umanità. È in corso, tra l'altro, alla NATO anche la riunione di emergenza sulla Libia e per quanto riguarda la cronaca, sul fronte degli scontri nella città di Zawiya, a 60 chilometri da Tripoli, si continua a combattere, oltre una ventina sono i morti, 44 i feriti, quasi tutto l'est del paese è ormai nelle mani dei ribelli, difficile si sta facendo col passare delle ore la situazione a Tripoli, bisognerà aspettare la fine della preghiera per capire quale sarà la giornata che dovranno affrontare soprattutto le persone che abitano a Tripoli. In Libia ci sono ancora 3.500 europei che dovrebbero essere evacuati, ma circa il 20% ha la doppia nazionalità. Secondo quanto reso noto dalla Farnesina, per quanto riguarda gli italiani, in totale erano 1.500. Fino a ieri sera erano 1.100 gli italiani che sono stati riportati in Italia con voli operati in collaborazione con Alitalia e Ministero della Difesa. Ora restano poco meno di 400 connazionali da rimpatriare e alcuni tra i 50 e i 100 sono difficili da raggiungere. Ce ne ha parlato il sottosegretario agli esteri Stefania Craxi. Intanto la Farnesina è in una situazione difficilissima, precipitata nel giro di 48 ore con le comunicazioni difficili nel paese. Ha rimpatriato la stragrande maggioranza dei cittadini italiani che chiedevano di tornare. In 48 ore abbiamo potuto rimpatriare circa 1.000 persone. La maggior parte partivano dall'aeroporto di Tripoli. Stamattina sono partiti due C-130, uno diretto a Tripoli per raccogliere 10 italiani che ieri non sono riusciti ad arrivare in aeroporto, più altri cittadini dell'Unione Europea. Un altro diretto all'aeroporto di Sheba per accogliere altri italiani provenienti da diverse parti del paese. La nave cisterna Mirabelli sta avendo difficoltà, ma dovrebbe attaccare al porto di Misurata per accogliere altre 200 persone. Quindi io credo che entro oggi l'evacuazione sia compiuta, rimangono poche decine di persone in situazioni non facili di cui ci stiamo occupando. Che sono in aree del paese difficili da raggiungere o che comportano difficoltà di spostamento. Esattamente, però naturalmente ci occuperemo di tutti. Fino adesso fortunatamente nessun cittadino italiano è stato coinvolto in incidenti gravi, quindi il lavoro è stato fatto in coordinamento con tutti i ministeri competenti ed è stato ottimo. Ecco, questa è la situazione sul fronte dei nostri connazionali che dovranno, come avete sentito, essere rimpatriati nel corso delle prossime ore. Ovviamente è difficile anche verificare le notizie che riceviamo, stiamo facendo molta fatica in questo senso, è normale. Una di queste riguarda gli impianti petroliferi. I leader della rivolta libica che hanno assunto il controllo di Bengasi, seconda città del paese, hanno fatto sapere questa mattina che quasi tutti gli impianti petroliferi si situati nella zona orientale del paese sono in questo momento sotto il controllo dei rivoltosi, e questa è una notizia. Un altro dato che va segnalato e che fa molta impressione anche proprio da vedere è il massiccio esodo che si sta verificando proprio in queste giornate. È stata aperta una porta al confine con l'Egitto e stanno transitando da quel punto di frontiera migliaia e migliaia di persone. È veramente impressionante vedere questo esodo di persone che si portano dietro di tutto. Abbiamo visto persone portarsi dietro proprio pezzi quasi di casa, e una cosa che comincia a far temere anche i governi europei è proprio che questo esodo da qualche parte, insomma, dovrà andare, tutta questa gente da qualche parte dovrà andare. E di poco fa l'agenzia è uscita adesso, dice: con i centri di accoglienza pieni, il rischio esodo dalla Libia in rivolta, il Viminale, secondo quanto si apprende, punta a cercare strutture in tutta Italia per ospitare fino a 50.000 migranti che potrebbero sbarcare nel giro di un mese. Quindi questa è la fotografia, lo scenario peggiore ipotizzato dagli esperti del ministero. A te, Anna. Grazie a Cristina Carpinelli. Allora, naturalmente, come dicevamo, se ci saranno aggiornamenti ve li daremo nel corso del giornale, ma in questi minuti la notizia, come diceva Cristina, si attende da Bruxelles, dove si ipotizza un pacchetto di sanzioni europee al più presto. Allora, a Bruxelles andiamo, dove c'è Adriana Cerretelli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, si parla di sanzioni. Ieri si ventilava addirittura l'intervento militare umanitario. Cosa c'è di concreto? Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore, Adriana? Ma io direi che ci dobbiamo aspettare il massimo della pressione. Anche Obama si è fatto vivo facendo pressione a sua volta sugli europei, e di questi tempi gli europei tendono a dire il presidente americano più che prendere iniziative in proprio. D'altra parte è convocato questa sera il Consiglio di sicurezza in via urgente, e tutto questo non a caso, perché se le sanzioni certamente saranno coordinate con gli americani e di sicuro riguarderanno l'embargo sulle armi, tra l'altro la direttiva europea che prevede il trasferimento di armi alla Libia è già stata sospesa insieme ai negoziati commerciali bilaterali tra Unione Europea e Libia. Comunque, a prescindere dall'embargo, probabilmente ci potrebbero essere altre misure. Si parlava appunto in questi giorni sia del divieto di sorvolo aereo, per esempio la no fly zone, sia il congelamento dei beni, soprattutto della famiglia Gheddafi. La Svizzera per esempio l'ha già fatto, ma comunque il congelamento dei beni libici all'estero. Questi sono i tipi di misure di cui si sta discutendo. Quanto invece alla ipotesi di un intervento umanitario militare, su questo invece diciamo il corpo che può partire c'è, ma è necessario dal punto di vista giuridico un mandato dell'ONU, che magari potrebbe appunto arrivare stasera con la riunione del Consiglio di sicurezza, e una dichiarazione formale di emergenza umanitaria. Ecco, per cui è un po' più difficile, però, che questo sia concretizzi, diciamo, almeno in tempi brevi. Adriana, c'è anche il fronte poi degli immigrati. Abbiamo sentito poco fa le stime del Viminale. Questa mattina, tra l'altro, da Berlino il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto invece non bisogna cedere a vittimismi e allarmismi su questo fronte. L'Italia continua a invocare l'Europa. Dall'Europa come appare questa emergenza? Ma direi l'Europa è spaccata, nel senso che da una parte c'è il gruppo dei sei paesi mediterranei, cioè Italia, Francia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro, che naturalmente chiedono il famoso burden sharing, cioè la spartizione dei rifugiati qualora in tutta Europa, qualora arrivassero delle ondate spaventose come si teme, e al tempo stesso chiedono un piano, un pacchetto di solidarietà finanziaria. Ora, sui soldi secondo me alla fine arriveranno, mentre sulla spartizione dei rifugiati l'Italia del Nord in questo caso è assolutamente schierata contro quella del Sud, cioè non intende dare solidarietà con le scuse più svariate: siete 60 di persone, cosa saranno mai queste ondate, eccetera, vi spaventate per 5.000 tunisini, per esempio ieri la Svezia diceva noi siamo un popolo di 9 milioni di persone, abbiamo accolto l'anno scorso 32.000 rifugiati e non abbiamo fatto storie, lo stesso per esempio i tedeschi, cioè l'Italia, l'Europa del Nord da sempre è assolutamente indisponibile a offrire posti. Solidarietà al sud. Soldi sì, posti no. Esatto, però grazie. Io credo che di fronte a un'emergenza seria, vera, come quella che si teme, che speriamo che naturalmente non accada, cioè nessuno si potrà tirare indietro alla fine. Grazie ad Adriana Cerretelli, dicevamo le novità si attendono dall'Europa, naturalmente ve le daremo appena ci saranno. A preoccupare c'è anche un altro fronte, sono le ripercussioni economiche, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, oggi volano ancora in Italia i prezzi della benzina, la verde ha raggiunto l'1,536 euro al litro, il gasolio quota 1,426, un maxi aumento quello deciso da Eni che in una sola battuta ha aumentato i listini di 2 centesimi al litro. In soccorso sul fronte del petrolio arrivano però intanto altri paesi. Deborah Rosciani. Sì, l'OPEC si è dichiarato pronto ad intervenire per assicurare gli approvvigionamenti petroliferi in caso di perturbazioni nelle consegne da parte della Libia e queste dichiarazioni hanno rassicurato il mercato e le quotazioni del greggio sono scese rispetto ai top toccati ieri. Il WTI, il greggio di riferimento americano consegne ad aprile, è sceso a $96,88 e più rassicurante anche il versante del Brent, il greggio del Mare del Nord, il greggio di riferimento europeo, stessa consegna $110,89, ricordiamo che ieri ha toccato la punta di 120, per cui questo versante, il versante del petrolio più tranquillo, stamattina rasserena gli animi agli investitori anche sul mercato azionario, le borse stanno recuperando parte del terreno perso nelle ultime 4 giornate. C'è però un'altra curiosità da raccontare questa mattina, un nuovo stop tecnico impedisce le contrattazioni a Londra, dalle 9 di questa mattina il mercato londinese è a malapena riuscito ad avviare la giornata, però poco fa dal London Stock Exchange si è appreso che le contrattazioni riprenderanno alle 13:15 dopo questo blocco che ha durato 4 ore. Ricordiamo che un nuovo blocco di un'ora c'era stato ieri sulla piazza francese, quello ben più corposo di martedì di Piazza Affari che aveva inibito le contrattazioni fino alle 15:30 del pomeriggio. Sembra essere proprio la settimana della maledizione delle piattaforme. Anna, è tutto, grazie. Grazie anche a Deborah Rosciani. Non solo internet, Twitter e TV satellitare, nella rivolta libica un ruolo importante in queste ore è giocato dalla radio a onde medie usata dai ribelli per diffondere proclami contro Gheddafi. Abbiamo chiesto di raccontarcelo ai radioamatori che in queste ore stanno monitorando tutto questo, tra loro il giornalista italiano Andrea Lavendel. Nelle ore tra domenica sera e lunedì, due impianti che prima erano controllati naturalmente dalle autorità governative diffondevano invece programmi e proclami chiaramente di matrice insurrezionale, se vuoi, cioè erano i ribelli che avevano preso il controllo degli studi di trasmissione e utilizzavano due impianti nella parte orientale della Libia, a Bengasi e a El Beida. È stata una scoperta molto, molto importante perché si erano rivelati molto più in fretta di quello che lasciavano capire invece i canali più ufficiali, più tecnologici, ed è stata una piccola scoperta geopolitica, se vuoi, resa possibile da una tecnologia che tutti ormai hanno dimenticato, la vecchia radio. Le 13:18 minuti, le notizie di oggi. L'Europa pronta a sanzioni contro la Libia, 400 gli italiani ancora bloccati, avanzano le truppe anti-Gheddafi, presa anche la città di Misurata. A volare le stelle il prezzo della benzina, in soccorso arriva l'Arabia Saudita che aumenta l'estrazione di petrolio. Mille proroghe sia la Camera, a Montecitorio anche Berlusconi, il rapporto UNICEF adolescenti sempre più a rischio. E noi riprendiamo da Montecitorio dove c'è Elisabetta Fiorito. Siccome era prevedibile, Anna, la fiducia passa alla prova di Montecitorio, ma questa volta i deputati a favore scendono a 309, lontani dai 316 della maggioranza assoluta e dai 325 fissati come traguardo dal premier Silvio Berlusconi. I contrari sono stati 287. Fiducia al mille proroghe, quindi, mentre il maxi emendamento verrà votato nel primo pomeriggio perché il regolamento della Camera prevede il voto disgiunto. Domani è atteso il voto definitivo del Senato e tra le curiosità qui la Camera non ha votato Antonio Di Pietro che ha protestato in aula per una chiama troppo veloce. La maggioranza è soddisfatta, il capogruppo della Lega Marco Reguzzoni. Noi riteniamo che il milleproroghe sia un provvedimento doveroso perché abbiamo la necessità, ad esempio, di rifinanziare i fondi per gli alluvionati, abbiamo la necessità di sostenere i nostri enti lirici e di intervenire su tante questioni, tra cui quella delle quote latte, per cui è un provvedimento necessario per il Paese e che la maggioranza sta portando avanti. Ma dall'opposizione si contesta la compravendita dei voti, denunciata ieri dal deputato PD Gino Bucchino, e lo stop al divieto di incrocio di TV e giornali. Sentiamo Enrico Letta del Partito Democratico. Dentro il milleproroghe, tra tante cose sbagliate che ci sono, poi, e sempre funziona così, rispunta il conflitto di interessi, perché la norma, perché alla fine è sempre così. C'è sempre il diavolo che mette qualche particolare rispetto a vicende che niente hanno a che vedere con il sostegno alle famiglie, alle imprese. Forse possono avere a che vedere al sostegno con una impresa italiana, ma non crediamo che questo sia il modo di governare. E qui alla Camera è arrivato anche il premier Silvio Berlusconi, che ha riunito le donne PDL e dalle indiscrezioni si è scagliato contro il presidente della Camera Gianfranco Fini. In sostanza Berlusconi avrebbe detto: alla Camera non ci fa lavorare, ci viene impedito di portare avanti i provvedimenti. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. C'è una notizia degli ultimi minuti: il GIP del Tribunale di Bari, Sergio Di Paola, ha archiviato su richiesta della Procura l'indagine a carico del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, indagato, ricordiamo, per presunte pressioni politiche nel 2008 nei confronti di direttori generali di alcune ASL pugliesi. Ieri era stato chiesto l'arresto per un senatore del Partito Democratico, all'epoca assessore alla sanità in Puglia, Tedesco. Poco fa ha deciso l'autosospensione dal Partito Democratico. È Emilio Triarca, il commissario straordinario intanto del Pio Albergo Trivulzio, l'ente al centro in questi giorni della Fittopoli milanese. Anche questa è una notizia arrivata pochi istanti fa. La scelta è stata proposta dal governatore Roberto Formigoni ed è stata ratificata. Ricorderete la vicenda della Vinyls. A metà dicembre la partita sembrava chiusa, il 31 gennaio si aspettavano i preliminari di vendita Eni Ghita, entro il 15 febbraio doveva arrivare l'offerta definitiva e poi il passaggio totale. Un calendario che però non è andato come previsto, perché nulla è accaduto il 31 gennaio. Gli operai allora sono tornati sulle torri di petrolchimici, sia a Porto Marghera sia a Porto Torres, e 10 di loro ormai sono da un anno all'Asinara, quella che ormai è l'isola dei cassi integrati. Il ministro dello sviluppo economico ha annunciato che entro domenica arriveranno le firme. Argentino Tellini, operaio sardo della Vinyls, al microfono di Valeria De Rosa. La nostra posizione è di grandissima preoccupazione. Questo l'avevamo capito già da quando siamo saliti, perché anche io e altri due miei colleghi siamo saliti sulla torre esattamente 15 giorni fa a oggi. Infatti non a caso il ministro aveva detto 15 giorni da quella data lì, poi sono saliti anche quelli di Porto Marghera e di Ravenna sopra la torre. Noi siamo saliti appunto perché le trattative andavano secondo noi a rilento, segnali positivi di un'accelerazione non ce ne sono stati, oramai le diverse date sono saltate, quindi aspettiamo questi due giorni, ma non penso che in questi due giorni si possa, visto che è sabato e domenica, quindi da lunedì noi ci prepareremo anche come operai sardi a fare un'ulteriore mobilitazione. Quando siete arrivati lì qualcuno di voi ha detto: non ce ne andremo finché non riavremo il nostro posto di lavoro. Non si va via né dall'Asinara né dalla Torre Aragonese fino a quando non si risolve la cosa. Oramai ci siamo un anno e più di un anno, quindi non vedo perché ce ne dovremmo andare. E il PD è alle prese con le primarie, resta da sciogliere il rebus di Napoli dopo la conferma dell'indisponibilità del magistrato anticamorra Raffaele Cantone, che potrebbe unire tutte le forze del centro-sinistra. A Torino invece è la campagna dei 5 candidati: Fassino e Gariglio per il PD, Viale per i radicali, Curto e Passoni per la sinistra. Si avvia alla chiusura. La partita si giocherà probabilmente tra l'ex segretario DS Fassino e il quarantenne Gariglio di Area Cattolica, con l'assessore al bilancio Passoni a fare da terzo incomode. Ma sul voto del PD pesa l'incognita dell'affluenza, ma anche qualche voce di rischio di inquinamento del voto dovuto a manovre del centro-destra. Queste le voci di queste ore. Paolo Piacenza ha intervistato la segretaria del PD di Torino, Paola Bragantini. secondo me verranno moltissimi cittadini a votare, perché la domanda che noi gli poniamo è una domanda estremamente interessante, e quindi se sono venuti in 39.000 all'ultima volta per scegliere tra Bersani e Franceschini, siamo certi che almeno altrettanti verranno quest'altra volta, quindi una partecipazione direi piuttosto importante. E per quanto riguarda l'inquinamento del voto, io francamente non vorrei fasciarmi la testa prima di essermela rotta. Credo che il centrodestra abbia di meglio da fare, anche perché i nostri candidati comunque sono tutti candidati forti, e quindi non vedo perché dovrebbero parteggiare per l'uno o per l'altro. Naturalmente coloro che verranno a votare alle primarie sottoscriveranno il programma del centrosinistra, quindi... Su cosa si gioca la sfida del sindaco a Torino, da quello che è emerso per il centrosinistra, da quello che è emerso in queste primarie? Senz'altro si gioca sulla qualità delle proposte, ma non solo, perché noi abbiamo amministrato bene in questi anni, quindi sulla nostra capacità di valorizzare quello che è stato fatto e sulla nostra capacità di essere convincenti nel dire che faremo non solo altrettanto, ma anche meglio. Un accordo per garantire pieno sostegno alle piccole imprese. Lo hanno sottoscritto questa mattina Gruppo Intesa San Paolo e Rete Impresa. Sul tappeto ci sono 5 miliardi di euro per permettere alle piccole e medie imprese di rafforzarsi, per essere pronte a cogliere i segnali di ripresa. Marco Morelli, direttore generale vicario di Intesa San Paolo, al microfono di Vincenzo Miglietta. Un accordo importante oggi, leggiamo i numeri, 5 miliardi sul piatto del finanziamento, ma quali sono i punti di forza di questa intesa? Io credo i punti di forza di questa intesa sono il mettere a disposizione di un bacino di clienti importantissimo e fondamentale degli strumenti che non sono solo strumenti tecnici di finanziamento, ma sono strumenti di qualità, di analisi di tutta quella che è la parte intangibile di un'azienda, e che aiutano moltissimo a poter poi arrivare a soluzioni pratiche che sono veramente tarate su quelle che sono le esigenze di ogni singolo cliente. Quindi la grossa differenza e la grossa novità, ripeto, è avere degli strumenti che aiutano a livello locale, a livello microterritoriale, il dialogo tra chi ha bisogno dell'aiuto di una banca e di chi come noi deve aiutare un sistema che, come abbiamo visto dai numeri, è un sistema importantissimo per l'economia di questo paese. 150 anni dell'Unità d'Italia in arrivo, ci sono anche 6 milioni di euro per le scuole che promuoveranno i viaggi di istruzione alla scoperta del nostro paese. Un accordo in tal senso è stato presentato e siglato questa mattina tra Ministero della Pubblica Istruzione e del Turismo, ma torna ad attaccare il ministro Maria Stella Gelmini gli insegnanti che protestano con lo sciopero delle gite contro i tagli del governo. È una forma di protesta che per fortuna riguarda un numero abbastanza limitato di insegnanti, è una forma di protesta che purtroppo penalizza i ragazzi e che francamente non si comprende come eventuali e legittimi pareri contrari alle riforme o a scelte assunte dal Ministero debbano poi comportare un danno, una penalizzazione per gli studenti. Anche perché, diversamente dal passato, noi abbiamo già per i viaggi di istruzione, dall'inizio dell'anno sono già stati assegnati, come dicevo prima, 130 milioni di euro. Ricordo che con il governo precedente erano 117 milioni, quindi vi è stato un lieve aumento. Abbiamo poi previsto un contributo straordinario di 6 milioni per in occasione dei 150 anni, quindi credo che ci siano tutte le condizioni economiche per promuovere questi viaggi e quindi per non recare un danno, una penalizzazione francamente incomprensibile agli studenti. Ci fermiamo qui, il tempo è terminato ormai per le notizie. GR24 come sempre vi aspetta alle 14. Filippo Reggi in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.